Altre volte avevano cotto in forno per pranzo il melone. La buccia era così dura che la mamma aveva dovuto prendere l'ascia del babbo per tagliare il melone a pezzi. Quando i pezzi erano cotti nel forno, a Laura piaceva cospargerne l'interno con del burro e poi scavare la polpa gialla e mangiarla col cucchiaio. Per cena si aveva spesso di questa stagione grano con latte. Anche questo non era niente male. Era così buono che Laura riusciva a malapena ad attendere che il grano fosse pronto, dopo che la mamma aveva cominciato a sgranarlo. Ci volevano 2 o 3 giorni per prepararlo. Il primo giorno la mamma puliva e spazzava tutta la cenere fuori dalla stufa. Poi bruciava dei bei pezzi di legno duro e metteva da parte quella cenere. La metteva dentro una piccola sacca di pezza. Quella sera il babbo portava in casa delle spighe di grano dai larghi chicchi gonfi e sgranava le spighe mettendo tutti i chicchi in una grande padella finché questa non era piena. Il giorno dopo, abbastanza presto, la mamma metteva il grano e il sacchetto di cenere nella grande pentola di ferro, riempiva la pentola di acqua e la faceva bollire a lungo e finalmente i chicchi di grano cominciavano a gonfiarsi e si gonfiavano fino a che la loro pelle non si spaccava e non se ne veniva via. Quando tutte le pellicine se ne erano venute via, la mamma trascinava all'aperto la pesante pentola, riempiva una tinozza pulita con l'acqua fredda della sorgente e passava il grano dalla pentola alla tinozza. Poi si tirava sulle maniche del vestito di cotonina a fiori, le rimboccava fin sopra i gomiti e si inginocchiava vicino alla tinozza. Con entrambe le mani sfregava il grano finché le bucce non erano venute via tutte e non galleggiavano sulla superficie dell'acqua. Spesso buttava via quell'acqua e riempiva di nuovo la tinozza con secchi di acqua pulita e di sorgente, continuando a sfregare il grano fra le mani e a cambiare l'acqua finché ogni pellicina non se n'era venuta via. La mamma era graziosa con le braccia nude, bianche e ben tornite, le gote rosse e i lisci capelli scuri e brillanti, mentre sfregava e sciacquava il grano nell'acqua pulita e non si schizzava mai nemmeno una goccia d'acqua sul suo bel vestito. Quando finalmente il grano era pronto, la mamma metteva tutti quei morbidi chicchi bianchi in un grande boccale nella dispensa e finalmente si poteva avere per cena il grano col latte. A volte si mangiava il grano per colazione con lo sciroppo d'acero sopra e altre volte la mamma friggeva i morbidi granelli nel grasso di maiale. Ma a Laura piacevano soprattutto col latte. L'autunno era una gran bella stagione. C'era tanto lavoro da fare, c'erano tante leccornie da mangiare e tante nuove cose da vedere. Laura sgambettava e si dava da fare intorno come gli scoiattoli dalla mattina alla sera. Una mattina, piuttosto fredda, apparve sulla strada una strana macchina. Era tirata da 4 cavalli e vi stavano sopra 2 uomini. I cavalli l'avevano trascinata fin sui campi dove il papà, lo zio Harry, il nonno e il signor Peterson avevano ammucchiato il frumento. Altri 2 uomini la seguivano, portando un'altra macchina più piccola. Il papà venne a dire alla mamma che i trebbiatori erano arrivati, poi corse di nuovo fuori verso i campi con la sua pariglia. Laura e Mary chiesero il permesso alla mamma e poi corsero fuori per i campi dietro di lui. Dovevano stare attenti a non intralciare il lavoro degli altri. Zio Harry arrivò a cavallo, smontando, legò la sua cavalcatura a un albero. Poi lui e papà attaccarono gli altri cavalli, 8 in tutto, alla macchina più piccola. Legarono ogni pariglia al termine di un lungo tronco che veniva fuori dal centro della macchina. Una lunga verga di ferro congiungeva al suolo la macchina più piccola a quella più grande. Laura e Mary fecero molte domande e papà disse loro che la macchina grande era il separatore e la verga era l'albero a camme e la macchina piccola era la motrice. Gli 8 cavalli che vi erano stati legati la facevano andare, quindi era una motrice a 8 cavalli. Sulla motrice stava seduto un uomo. Quando tutto era pronto, incitava i cavalli che incominciavano a girare. Giravano in cerchio intorno a lui e ogni pariglia tirava avanti il tronco di legno cui era legata, seguendo la pariglia che stava davanti. E mentre giravano in cerchio, saltavano con attenzione la verga di ferro che girava al suolo su se stessa. Il fatto che girassero e spingessero faceva sì che la verga girasse e girasse e la verga metteva in moto il separatore che stava vicino al mucchio di frumento. Tutto questo macchinario faceva un enorme fracasso, sferragliando fragorosamente. Laura e Mary si presero strette per mano sull'orlo del campo e rimasero a guardare con gli occhi spalancati. Non avevano mai visto una macchina prima d'allora e non avevano mai udito nessun fracasso del genere. Il papà e lo zio, arrampicati in cima al mucchio di frumento, buttavano le balle giù su un asse. Un uomo accanto all'asse tagliava i lacci delle balle e le infilava a una in una cavità da un lato del separatore. La cavità sembrava la bocca del separatore e aveva infatti dei lunghi denti di ferro che masticavano. Masticarono le balle di frumento e il separatore le ingoiò. E dall'altra parte del separatore veniva soffiata fuori la paglia, mentre da un lato scendevano i chicchi di frumento. Due altri uomini lavoravano in fretta raccogliendo la paglia e facendone dei covoni. Un uomo provvedeva a insaccare il frumento in grani che veniva fuori dalla macchina. I grani di frumento che si versavano fuori dalla bocchetta del separatore cadevano in un misuratore da un mezzo staio e appena il misuratore era colmo, l'uomo ne metteva un altro vuoto al suo posto e vuotava quello pieno in un sacco. Aveva appena il tempo di svuotarlo e di rimetterlo subito sotto la bocca d'uscita prima che l'altro traboccasse. Tutti quanti lavoravano quanto più rapidamente potevano. Ma la macchina andava giusta al loro ritmo. Laura e Mary erano così eccitate che riuscivano appena a respirare, si tenevano strette per mano e guardavano. I cavalli camminarono e camminarono in tondo. L'uomo che li governava faceva schioccare la frusta e gridava: «Avanti, John! Non cercare di fare lo scansafatiche!» E ciac faceva la frusta. «Attento lì, Billy! Su da bravo! Va al passo, segui gli altri!» Il separatore divorava le balle. La paglia dorata veniva fuori in una nuvola gialla e il frumento ruscellava giù bruno e inarrestabile dalla bocchetta, mentre tutti si davano da fare. Papà e zio Harry raccoglievano le balle e le gettavano giù più rapidamente che potevano. La pula e la polvere volavano dappertutto. Laura e Mary rimasero a guardare per un bel pezzo, poi tornarono di corsa a casa per aiutare la mamma a preparare la colazione per tutta quella gente. Un gran pentolone di cavolo con carne bolliva sulla stufa. Una gran padella di fagioli e un pane di gran turco stavano cuocendo nel forno. Laura e Mary prepararono la tavola per i trebbiatori. Vi misero il pane, il burro, delle ciotole di zucca stufata, torta di zucca e torte di bacche secche e biscotti, formaggio e miele e brocche di latte. Poi la mamma aggiunse sulla tavola le patate bollite e il cavolo con la carne. I fagioli al forno, il pane caldo e anche i meloni fatti al forno e infine versò il tè. A mezzogiorno i trebbiatori si sedettero alla tavola coperta di cibi, ma non era affatto troppo perché i trebbiatori lavoravano sodo ed erano sempre molto affamati. Verso la metà del pomeriggio le macchine avevano finito di trebbiare e gli uomini cui appartenevano le riportarono verso i grandi boschi, portandosi via con loro i sacchi di frumento che erano la loro paga. Andavano verso il prossimo posto dove dei vicini avevano probabilmente ammucchiato il loro frumento in attesa di farlo trebbiare da loro. Papà era molto stanco quella sera, ma era felice. Disse alla mamma: «A Harry, a Peterson, al nonno e a me sarebbero corse almeno un paio di settimane a testa per trebbiare con i correggianti tanto grano quanto ne hanno trebbiato oggi quelle macchine. E non avremmo nemmeno ottenuto altrettanto frumento, e non sarebbe comunque stato così ben pulito. Quella macchina è una grande invenzione. Gli altri contadini possono rimanere fedeli a tutti i vecchi sistemi che vogliono, ma io sono assolutamente per il progresso. È un'epoca meravigliosa quella in cui noi stiamo vivendo. Finché coltiverò i cereali, farò venire delle macchine a trebbiare. Basta che ce ne sia almeno una in giro nel vicinato». Quella notte era troppo stanco per parlare con Laura, ma Laura era orgogliosa di lui. Era il papà che aveva fatto venire gli altri uomini per trebbiare e che aveva chiesto la trebbiatrice, e quella era una macchina meravigliosa. Tutti erano felici che fosse venuta. Il cervo nel bosco. L'erba era secca e sbiadita. Bisognava di nuovo portare le vacche dai boschi nelle stalle per nutrirle la sera. Tutte le foglie che prima erano vivacemente colorate apparivano di uno smorto color bruno all'inizio delle fredde piogge dell'autunno. Non si poteva più giocare sotto gli alberi, ma il papà stava in casa quando pioveva e ricominciò così a suonare il violino dopo cena. Poi le piogge smisero, il clima si fece più freddo, all'alba tutto scintillava sotto la bruma, i giorni divennero più corti e un fuocherello ardeva tutto il giorno nella stufa per tenere calda la casa. L'inverno non era poi tanto lontano. La soffitta e la cantina erano di nuovo piene di cose buone e Laura e Mary avevano ripreso a fare delle trapunte colorate. Tutto quanto cominciava a ridiventare di nuovo comodo e sereno. Una sera, quando fu di ritorno dall'avere accudito alle bestie, papà disse che dopo cena sarebbe andato a vedere se poteva catturare un cervo. Non c'era più stata carne fresca in casa dopo la primavera, ma ora i cerbiatti dovevano essere già cresciuti e il babbo voleva di nuovo andare a caccia. Il babbo si era fatto un passo del cervo in uno spiazzo nei boschi, con degli alberi accanto su cui poteva salire a sorvegliare e spiare. Il passo del cervo era un posto dove i cervi venivano a leccare il sale. Quando trovavano un posto dove ci fosse del sale da leccare, vi tornavano. E quello veniva chiamato un passo del cervo. Il papà se n'era creato uno spargendo del sale sul terreno. Dopo cena, il babbo prese il suo fucile e si recò nei boschi. Laura e Mary andarono a dormire senza favole né musica. Appena si svegliarono il mattino cercarono alla finestra, ma non c'era nessun cervo appeso agli alberi di fronte. Papà non era mai stato fuori a caccia di cervi senza tornare a casa con almeno una preda. Le due sorelline non sapevano più cosa pensare. Per tutto il giorno il papà fu occupato a imbottire le fessure esterne della casa e della stalla con foglie secche e paglia tenuta ferma da sassi, per tenere fuori il freddo durante l'inverno. Faceva sempre più freddo ogni giorno che passava e quella notte in casa venne tenuto acceso il fuoco e le finestre furono chiuse per bene e inchiodate per l'inverno. Dopo cena il babbo prese Laura sulle sue ginocchia, mentre Mary gli si sedeva vicino nella sua piccola sedia e disse: "Adesso vi dirò perché oggi non avete avuto carne fresca da mangiare. Quando sono stato al passo del cervo mi sono arrampicato sulla grande quercia. Mi ero trovato un posto comodo, su un grosso ramo da dove riuscivo a vedere tutto quanto. Ero abbastanza vicino da poter sparare a qualsiasi animale si fosse avvicinato. Il fucile era carico e pronto sulle mie ginocchia. Mi sedetti e aspettai che sorgesse la luna e che illuminasse lo spiazzo. Ieri ero un po' stanco per aver spaccato la legna per tutto il giorno e devo essermi addormentato perché mi sono trovato poco dopo a dover aprire gli occhi. La grande luna tonda era appena sorta. La vedevo tra i rami nudi degli alberi, bassa nel cielo, e proprio sotto ad essa scorsi un cervo. Aveva la testa alzata e stava ascoltando qualcosa. Le grandi corna ramose si ergevano alte sulla sua testa. Era scuro contro la luce della luna, un bersaglio perfetto. Ma era talmente bello e sembrava così forte e libero e selvaggio che non potevo ucciderlo. Sono rimasto lì appollaiato a guardarlo fino a che lui non se n'è andato via nel buio dei boschi. Poi mi sono ricordato che la mamma e le mie piccoline attendevano che io portassi a casa della cacciagione fresca, perciò ho deciso che alla prossima occasione avrei sparato. Dopo un poco un grosso orso è venuto fuori dall'oscurità. Era così grasso dopo aver banchettato per tutta l'estate con le bacche, le radici e i lombrichi, che era grande quasi quanto due orsi. Dondolava il capo da una parte e dall'altra mentre attraversava a quattro zampe lo spiazzo illuminato dalla luna, finché non è giunto davanti a un tronco marcito. Lo hanno usato un po' ed è rimasto in attesa. Poi con le zampe lo ha aperto e ne hanno usato ancora i pezzi, mangiandosi i lombrichi grassi e bianchi che c'erano dentro. A un certo punto si è alzato in piedi sulle zampe posteriori, perfettamente immobile, e si è guardato intorno. Sembrava che sospettasse che qualcosa non andava per il verso giusto. Stava cercando di vedere o di annusare di cosa si trattasse. Era un bersaglio perfetto, ma mi interessava tanto starlo a guardare. I boschi erano così quieti alla luce della luna che mi sono completamente dimenticato del mio fucile. Non ho nemmeno pensato di sparargli finché lui non se n'è andato via nei boschi. Così non va, ho pensato. Non prenderò niente in questo modo. Mi sono risistemato sull'albero e ho aspettato ancora. Questa volta ero proprio deciso a sparare alla prossima selvaggina che avrei visto. La luna era più alta nel cielo e il chiarore era brillante in quel piccolo spiazzo. Tutt'intorno le ombre erano dense e scure fra gli alberi. Dopo un certo tempo, una cerva zampettò timidamente fuori dall'ombra col suo cucciolo. Non avevano affatto paura, però. Andarono verso il posto dove avevo sparso il sale e insieme ne leccarono un poco. Poi sollevarono la testa e si guardarono. Il cerbiatto aveva fatto qualche passo e si era messo accanto alla madre ed erano rimasti lì insieme, fermi, a guardare i boschi e la luce della luna. I loro occhi erano lucidi e splendenti. Io sono rimasto lì immobile a fissarli fino a che non se ne sono andati via anche loro di nuovo nel buio. Poi mi sono calato giù dall'albero e me ne sono tornato a casa. Laura gli sussurrò nell'orecchio: "Sono contenta che tu non abbia sparato." E Mary disse: "Possiamo mangiare pane e burro?" Papà sollevò Mary dalla sua seggiolina e abbracciò entrambe le figlie stringendosele contro. "Voi siete le mie brave bambine," disse. "E ora è il momento di andare a letto. Su, correte, mentre vado a prendere il mio violino." Quando Laura e Mary avevano già detto le preghiere ed erano già al caldo sotto le coperte rimboccate, il babbo si sedette vicino al fuoco con il suo violino. La mamma aveva spento la lampada perché non aveva più bisogno di quella luce. Era seduta dall'altra parte del focolare, ad ondolarsi piano sulla sua sedia a dondolo, mentre gli aghi da maglia luccicavano dentro e fuori la calza che lei stava sferruzzando. Le lunghe sere d'inverno col fuoco e la musica erano tornate di nuovo. Il violino del papà suonò mentre lui cantava: "Oh Susanna, non piangere per me, me ne vado in California per non pensare più a te." Poi cantò un motivo tradizionale che conoscevano tutti, cambiando però un poco le parole. E quando smise di suonare, Laura gli chiese dolcemente a bassa voce che cosa volessero dire quelle parole antiche. "Oh, sono cose di tanto tempo fa, Laura," disse il papà, "e ora dormi." Ma Laura rimase sveglia ancora per un poco ad ascoltare il dolce suono del suo violino e il rumore del vento che soffiava solitario nei grandi boschi. Guardò il papà seduto sulla panca accanto al fuoco, mentre la luce delle fiamme giocava fra i suoi capelli scuri e la barba, specchiandosi nel violino dal colore bruno miele. E guardò la mamma, che si dondolava dolcemente lavorando a maglia. Disse a se stessa: "E questo è adesso." Era felice che la cara casa e il papà e la mamma e la luce del fuoco e la musica fossero adesso. Queste cose non potevano venire dimenticate, pensò, perché adesso è adesso e non può essere stato tanto tempo fa. Fine.